Mix 24 di Giovanni Minoli. Nelle elezioni in Iran, trionfo dei riformisti di Rouhani. Con il vostro voto avete creato una nuova atmosfera. È il presidente della Repubblica Islamica d'Iran a rivolgersi così agli elettori del suo paese che hanno decretato il trionfo dei riformisti moderati. A Teheran il successo si è poi trasformato in un vero e proprio trionfo, perché la lista dei riformisti moderati a lui collegata ha conquistato tutti e 30 i seggi disponibili. La gente ha scelto i candidati giovani, sono i giovani ad aver vinto queste elezioni, si dice in strada. Rouhani incassa il premio di credibilità per aver portato a termine le trattative sul nucleare. Ora dovrà riuscire ad affrontare le priorità interne del paese. Alberto Negri, giornalista, inviato del Sole 24 Ore. Ciao, tu sei appena tornato da Teheran, dove hai seguito le elezioni. È caduta la linea, allora richiamiamolo appena possibile. Intanto possiamo... Mario, sì. Possiamo intanto cominciare noi a parlare di Teheran. Naturalmente la voce di Alberto Negri è la voce di un testimone in diretta, sì. Però questa vittoria ce l'hai. Ah, ecco, è arrivata la linea. Alberto, ciao Alberto. Buongiorno a tutti voi. Ecco, allora, a Teheran davvero hanno vinto i riformisti? Hanno vinto l'Assemblea degli Esperti, questo di sicuro, che è l'organo che designa il successore della guida suprema. In Parlamento la situazione è più frammentata. Lì i principalisti, cioè i conservatori, hanno ancora la maggioranza, ma i riformisti e i moderati li tallonano da vicino. In più c'è un folto e nutrito gruppo di indipendenti, quello che io chiamo il Partito del Vento. Ecco, ma e nelle zone rurali com'è stata la situazione? Lì nelle province ci sono state in alcune aree forti affermazioni dei conservatori, per esempio Isfahan, che peraltro è una importante città storica dell'Iran, i conservatori hanno vinto 13-1 sui moderati. Quindi sì, vittoria, però dice quando Rouhani dice avete creato una nuova atmosfera col vostro voto, cosa vuol dire esattamente? Che è partito un messaggio dall'Iran, cioè che non si fanno passi indietro, questo sicuramente. E questa atmosfera nuova si sente a Teheran? Beh, certamente si sente, soprattutto perché il paese non vuole certamente tornare, dopo che si è fatto togliere le sanzioni con l'accordo sul nucleare, all'isolamento di prima. Però tu hai scritto che i principali referenti sono stati falcidiati a migliaia nelle selezioni preelettorali del Consiglio dei Guardiani. Questo cosa significa? Significa che alcuni centri di potere, come la guida suprema di Khamenei, il Consiglio dei Guardiani, il Pasdaran, cioè il braccio militare, la magistratura, questi sono ancora saldamente in mano ai conservatori, che tra l'altro controllano quasi 2/3 dell'economia. Quindi Khamenei, che dice che aveva invitato a non farsi contaminare dall'Occidente, in qualche modo ci è riuscito. Ma non c'è dubbio, perché l'apertura iraniana, e questo è un po' il frutto del compromesso che ci sarà e che c'è tra moderati e conservatori, è questo: c'è un'apertura, una liberalizzazione alla cinese, ma uno stretto controllo della politica e della sfera pubblica. Ecco, cosa resta degli uomini di Ahmadinejad? Ci sono anche loro tra gli eletti oppure no? E questo è stato l'aspetto più interessante, soprattutto quello che è avvenuto all'Assemblea degli Esperti. Sono state tagliate, come dire, le ali estreme di quel radicalismo conservatore. Sono usciti fuori almeno un paio di ayatollah che appoggiavano fortemente Ahmadinejad prima. Ma sono state lette anche 15 donne. Cosa le hanno raccontato le donne a Teheran? Cosa ti hanno raccontato? Io ho incontrato una delle maggiori deputate, delle più importanti, che è arrivata tra l'altro a Teheran al quarto posto, che è Suhaila Jalalabadzadeh, che è una donna tra l'altro di sperimentata esperienza politica e tra l'altro consigliera del ministro per l'industria, che mi ha raccontato semplicemente questo, che le donne in Iran possono fare tutto, ma per poter fare ancora di più hanno bisogno di altre affermazioni, e non soltanto è l'inizio politico. Di un percorso, insomma. È l'inizio di un percorso, e non soltanto dal punto di vista politico, ma anche sociale. Siamo di fronte comunque a una società fortemente tradizionalista e patriarcale. Ecco, Rouhani non l'ha detto esplicitamente, ma la sua candidatura è quasi certa per le elezioni del prossimo anno presidenziali? A me è stato confermato di sì. Per il 2017 si presenterà. Sì, questo cosa significherà per l'Occidente? Beh, significa soprattutto, e questa è una buona notizia forse per chi fa gli affari, che comunque l'apertura economica dell'Iran andrà avanti. Tant'è vero che Rouhani proprio ieri sera si è raccomandato per la privatizzazione dell'industria automobilistica. E questo è un modo per qualche modo tirare fuori, come dire, il tappeto dell'economia, del controllo dell'economia ai conservatori. Insomma, Rouhani sta facendo un po' il democristiano, se ho capito bene. Disposto, Forse non c'è paese più democristiano dell'Iran da questo punto di vista. grazie Alberto, buon lavoro. Ecco, a voi. Mario, non è che ci sarà una nuova primavera araba, cioè grande esaltazione di queste vittorie e poi invece sorprese? No, non ci sarà perché in realtà, e questo è positivo, perché in realtà il fatto che ci sia un controllo di tipo politico, culturale, mettetela come volete, è coerente con un certo tipo di sviluppo. Tenete presente che c'è sempre una forza che comanda nella storia, è la demografia. L'Iran ha 81 milioni di abitanti, pochissimi vecchi, moltissimi giovani. Cioè i dati qua davanti, tra 0 e 14 anni il 23% della popolazione, oltre i 65 anni è solo il 5,28%. Sapete quant'è la media in Occidente di quella oltre 65? È 15%, 14%, 17%, 18%. Noi siamo vecchi, questo è il problema. C'è nessun dubbio. Tu Pietrangelo sei stato molto in Iran. Ecco, cosa c'è di strutturalmente diverso tra la vittoria dei riformisti a Teheran e il paragone con le primavere arabe, se si può fare? Le primavere arabe sono state sempre teleguidate, prova ne sia la grande porcheria che si è realizzata in Egitto, e la vicenda Regeni insegna, e prova ne sia quel disastro che è stato apparecchiato in Libia e di cui, ahi noi, forse pagheremo le conseguenze presto. Sono state sempre teleguidate, nel senso che c'è una manina straniera a gestire le cosiddette primavere arabe. E invece l'Iran c'è una reale... Non solo non c'è la manina straniera, ma Negri lo spiegava bene, non c'è nazione più democristiana dell'Iran, ha un vizio di politica che è antico e che viene da lontano. Non bisogna dimenticare che ha creato una rivoluzione nel bel mezzo del trionfo della modernità, e sono totalmente immersi nella politica, per cui i nostri codici, no? Le nostre rappresentazioni, la differenza fra riformisti, insomma, moderati, servono e non servono. Non servono a niente, perché sono categorie diverse. Ed è normale vedere Ahmadinejad, appunto l'ex presidente, l'ex premier, ritrovarsi in fila come un normale elettore, è considerato tale dalla stragrande maggioranza, per cui non c'è lì un'idea di casta inamovibile. Ma Mario, vuoi... No, solo aggiungere un dato per fare il paragone giusto sulla demografia Iran. Prendiamo l'Italia. L'Iran, abbiamo detto, oltre 65, il 5,8%. Come noi, insomma, più o meno. Noi stiamo al 21%. Sì, no, dico come noi, come abitanti, 60-80 milioni. Sì, vabbè, insomma, è un paese grande, di grandi dimensioni. Sì. Ecco, però noi 21, loro 5,28. Cioè, capisci che è un mondo nostro che, così come lo abbiamo progettato, è finito. Scusate, e poi ancora un'altra precisazione: non è primavera araba per un altro semplice motivo. Non sono arabi, sono persiani, sono europei col tappeto. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Marilyn, reggiti forte. Ti ricordi di quel viaggio che pensavamo di fare per Pasqua ad Acapulco? Beh, probabilmente ci sarà un leggero cambiamento di destinazione. Magari, non so, la Luna. La grande sfida dell'Europa è alle porte. ExoMars, l'esplorazione robotica di Marte, guidata dall'Italia, prepara l'invio di astronauti sul pianeta rosso. Torino, la Space City italiana. Qui nel centro Altec si testano i prototipi del rover europeo che camminerà sul pianeta rosso. Storico per l'Italia, che farà del capitano Samantha Cristoforetti un personaggio da libro di storia. Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana nello spazio, record europeo, record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo, 199 giorni. Insomma, un personaggio da libri di storia. Che effetto le fa? Era un obiettivo personale, un sogno da realizzare, e poi insomma tutto il resto è un effetto collaterale, diciamo. Senta, intanto oggi e domani in 150 sale italiane esce Astro Samantha, il documentario che racconta la preparazione alla spedizione che l'ha fatta entrare nella storia. È soddisfatta dell'esito del documentario? Sì, penso sia venuto bene, e soprattutto credo che sia un'occasione di vedere un po' il dietro le quinte, quindi effettivamente quello che si deve fare per poi poter arrivare a quel momento che poi è molto più visibile del lancio della missione spaziale. Naturale. Senta, capitano, lei ha 38 anni, ma realizzare il sogno della vita, come è capitato a lei, la riempie o la svuota anche la vita? No, credo che la riempia, e in un certo senso ti dà molta serenità e molta tranquillità. Senta, ma paura ne ha mai avuta? Mi aspettavo di avere paura in certi momenti critici, devo dire, poi così in realtà non è stato. Credo che probabilmente ero talmente felice, contenta e appagata da quei momenti, in particolare così del lancio, che non ci ho proprio pensato alla paura. Senta, Cristoforetti, ma mettiamola così, qual è stata però la parte più rischiosa della missione? Ci sarà pur stata? Sì, beh certo, le missioni spaziali hanno due momenti che sono particolarmente rischiosi, che sono quelli del lancio e del rientro, perché sono quelli dove sono in gioco delle grandi energie e della tecnologia complessa per tenere questa esplosione di energie sotto controllo. E nel suo caso qual è stata la parte più rischiosa delle due? Insomma, sono andate tutte quante bene, no, per certo. Fortuna, quindi entrambi avevano i loro rischi calcolati a priori, per fortuna invece non ne parlerei, altrimenti non ne parleremo. Senta, tra gli altri ho letto che lei ha anche un altro primato, è stata la prima persona a essere riuscita a preparare un caffè espresso durante una spedizione. Come ha fatto? Beh, non per merito mio, ma grazie al lavoro di un team industriale basato a Torino, peraltro, che hanno lavorato molto bene, tra l'altro un team di ingegneri molto, molto bravi, molto giovani, che hanno lavorato non solo bene, ma anche in una lotta contro il tempo per riuscire a mandare questa macchina espresso in tempo prima del mio rientro. Senta, le faccio una domanda che sicuramente si fanno tutti, non so però se gliela fanno. In 199 giorni nello spazio, come ci si lava? Ci si lava con asciugamani, un po' così da situazione da campeggio, con asciugamani imbevuti di acqua e del sapone che non fa troppa schiuma, ci si lava un po' così. Certo, la doccia manca, devo dire. Manca. E le funzioni fisiologiche? Beh, c'è una toilette, anzi ce ne sono due, che sono basate sullo stesso sistema che è... quello dell'aspirazione, quindi insomma prima di espletare le proprie funzioni si deve accendere un ventilatore che aiuta a fare in modo che fluidi e solidi vadano nella direzione giusta. Senta, al cibo liofilizzato si è abituata facilmente? Sì, devo dire il cibo non era male per niente, non è solo liofilizzato, in parte è liofilizzato, altre invece sono delle buste, diciamo come delle razioni da campo, anche lì da campeggio, sigillate, che uno deve scaldare prima e poi aprire. E poi ne avevo anche una piccola scorta dall'Italia che avevo avuto l'opportunità di far produrre secondo i miei gusti, anche secondo dei criteri nutrizionali sani. Quindi, insomma, si è portato del cibo di nascosto da casa, insomma? No, non di nascosto, portare cose di nascosto. È difficile. Senta, ma nel vivere senza peso, come è stato per questi 199 giorni, le ha fatto prendere peso o perdere peso? Il mio peso è rimasto abbastanza costante. Ah, non è cambiato? Lo misuriamo ogni mese a bordo, non con una bilancia come quelle che abbiamo a casa. Come lo misurate? C'è un sistema che è basato su una frequenza di oscillazione, no? Si conosce la caratteristica di questa molla, cioè ci attacchiamo a questa specie di molla e iniziamo a oscillare, e poi un piccolo computerino fa il calcolo in base alla frequenza di questa oscillazione. Conoscendo la molla si può calcolare la massa. E lei è rimasta stabile? Sì, è rimasto abbastanza. Né preso né perso. Senta, la Stazione Spaziale Internazionale ha una fondamentale funzione di laboratorio di ricerca scientifica. Qual è stato l'esperimento più importante che lei ha eseguito? Ah, è una domanda che mi fanno spesso, però non è che immagino. Posso fare la classifica, anche perché si arrabbierebbero tutti gli altri ricercatori, sarebbe terribile. No, gli esperimenti naturalmente sono tutti importanti, anche perché poi nella scienza non è sempre, cioè, ha un aspetto che è quasi un gioco, cioè uno prova e poi vede cosa viene vede fuori, uno non lo sa a priori qual è l'esperimento importante. Se no non sarebbe ricerca. No, esatto. Senta, ma per 199 giorni ha vissuto in assenza di gravità, appunto. Al ritorno sulla Terra ho letto che camminava a fatica, insomma, che sensazione ha avuto? Sì, in realtà la gravità c'è sulla stazione spaziale, non siamo lontanissimi dalla Terra, siamo solo 400 km, però per questo fatto che siamo in orbita c'è l'assenza di peso. Certo. E quindi tornare è un impatto con questa realtà che è quella del peso, che inizialmente è abbastanza dura. Ah sì, perché bisogna reimparare a camminare, eh? Bisogna un pochino reimparare a camminare, non è che si sia disimparato a camminare, certo. Però si devono riattivare dei muscoli che insomma si sono un po' assopiti per 6 mesi, quindi insomma un po' di dolori, alcuni muscoli si sono accorciati, quindi magari qualche disequilibrio a livello di articolazioni, quindi sicuramente un po' di allenamento mirato e fisioterapia nelle prime settimane aiuta a rimettersi in testa. E quindi in quelli che saranno lunghissimi viaggi questo sarà un problema, quella della trasformazione dei muscoli del corpo. E sarà sicuramente un piccolo problema, anche perché pensando a missioni più lunghe, sicuramente la Luna, ma ancora di più quando poi nel lungo termine andremo a Marte, non avranno a disposizione probabilmente le apparecchiature molto anche grandi, imponenti, certo. Che abbiamo sulla stazione spaziale, perché la stazione spaziale è gigantesca, è grande, un campo da calcio. Appunto. Probabilmente non manderemo un campo da calcio su Marte, quindi dovremo inventarci delle cose più efficaci anche come volume. Senta, un po' di nostalgia dello spazio ce l'ha? Sì, sicuramente, insomma cerco di non pensarci troppo, anche perché mi voglio concentrare sulle cose belle che faccio adesso, però la speranza è... Ma perché adesso di bello cosa fa? Beh, adesso il centro astronauti europei qui a Colonia mi occupo di progetti futuri, quindi da una parte il post-ISS, quindi quello che vogliamo impostare adesso per poter fare nel prossimo decennio, quindi delle missioni di ritorno prima in orbita lunare, poi di cooperazione tra esseri umani e robot, mandando dei robot sulla superficie, e poi naturalmente l'obiettivo è di rimandare degli esseri umani sulla superficie. Ma intanto lei ci tornerà nello spazio o no? Beh, confido di sì, purtroppo non dipende da me, altrimenti avrei già comprato, diciamo, il biglietto. Non come lo potrei permettere. Senta, lei ha visto la Terra dallo spazio, sembra veramente solo un puntino nell'universo in cui ci si chiede come sia possibile litigare? Beh, ci si chiede se non sia inopportuno litigare, perché vedere la Terra da fuori veramente ci si rende conto che siamo un po' tutti là su questo pezzo di roccia lanciato in questo viaggio nello spazio, che non abbiamo altri posti dove andare, che quindi insomma siamo un po' un equipaggio di questa astronave. Quindi sarebbe meglio non litigare troppo. Sarebbe meglio, non ci conviene molto. Senta, ma avrà affrontato la questione di altre forme di vita, vedendo questo spazio da un altro punto di vista? Che risposta si è dato? Lei pensa che ci sia altra vita? No, credo che non sia ragionevole farne una questione di fede. Non è una questione sensazione. No, fede nel senso non è una questione di ci credo, non ci credo, lo penso, non lo penso. È una domanda completamente aperta, non sappiamo la risposta, è una domanda affascinante. E stiamo mettendo insieme mattoncini, perché per esempio ogni volta che mandiamo un rover su Marte, per esempio, che ha, e questa è una cosa molto attuale, perché lanceremo la prima parte della missione ExoMars europea proprio tra una settimana o poco più, e quindi ogni volta che mandiamo un rover che è in grado di analizzare il suolo marziano in una maniera più avanzata, eccetera, potremmo per esempio trovare dei segni di vita passata su Marte, chi lo sa, addirittura presente. Certo, ma che cosa serve ancora per arrivare su Marte? Bene. Beh, per arrivare con esseri umani. Sì, con serve, esseri umani, naturalmente. Con esseri umani, beh, insomma, serve un concetto, insomma, di architettura di missione. Bisogna sviluppare un'astronave che possa supportare la vita per un tempo prolungato, quindi sistemi di supporto alla vita che rispetto a quelli che abbiamo adesso devono essere un po' più robusti. Certo. Perché quelli che abbiamo adesso sulla stazione spaziale necessitano comunque di riparazioni e pezzi di ricambio periodicamente, quindi dobbiamo un attimo fare un salto di qualità, lì deve essere sistemi più robusti. Abbiamo bisogno di proteggere gli astronauti, i membri dell'equipaggio dalle radiazioni, che sono molto più importanti e pericolose, un viaggio che ci porta lontano dalla Terra rispetto a essere molto vicini alla Terra. Dobbiamo inventarci dei concetti logistici, dovremo probabilmente pensare a manifattura 3D per stampare pezzi di ricambio, per esempio. Certo. Dobbiamo inventarci modi di utilizzare le risorse. Insomma, non siamo ancora in arrivo. Tutto quello che dico, un passaggio, uno stop intermedio sulla Luna, in orbita lunare, ci servirà per affinare queste tecnologie. Senta, un'ultimissima cosa, ma vivendo nello spazio è più facile avvicinarsi o allontanarsi da un'idea di assoluto? Dipende poi da ogni persona, insomma. Certo, no, ma nel suo caso, comunque dell'idea di assoluto, comunque del mistero, una cosa che ci accompagna come esseri umani sempre, essere, insomma, nello spazio ti dà delle esperienze. Quindi è capitato anche a lei, insomma, riflettere in questo modo. Favorisco, beh, certo. Ecco, Samantha Cristoforetti, il 3 marzo, giovedì, sarà a Torino, al CERMIG, in occasione della giornata Torino Città dello Spazio. Roberto Battiston, che è presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, buongiorno. Ecco, buongiorno a voi. Presidente, Torino da Città dell'Auto a Città dello Spazio? Ma perché no? Certamente lo spazio sta diventando sempre più un elemento trainante per l'economia mondiale, numeri in crescita, e quindi sta cambiando qualcosa sicuramente, anche se siamo ancora molto lontani dai numeri delle automobili, naturalmente. Beh, però il Piemonte, Torino in modo particolare, ospita un polo aerospaziale con oltre 10.000 addetti, distribuiti su 6 grandi aziende, oltre 400 piccole e medie imprese, 3 atenei, 3 centri di ricerca. Che fatturato sviluppano? Stiamo parlando di circa 2 miliardi e mezzo di fatturato anno. Insomma, si comincia un cambio di pelle. Con un heritage, con un'eredità che viene da molto lontano, naturalmente queste cose non si improvvisano. Abbiamo i campioni degli industriali nazionali che lavorano a Torino, hanno fatto la stazione spaziale internazionale in cui Samantha ha vissuto così a lungo. Beh, quei pezzi, quegli abitacoli, quei nodi, quelle finestre sono state fatte a Torino, giusto per fare un esempio, più tante altre cose, naturalmente. Ecco Battistone, comunque la natura industriale di Torino comincia, come dire, a trasformarsi in una direzione diversa. Certamente ci sono questi segnali. Naturalmente occorre farlo adattandosi a un mondo, quello dello spazio, che cambia molto rapidamente. Certo. Grande innovazione, sempre innovazione alla frontiera. Non è pensabile di arrivare ai numeri delle automobili, nel senso della quantità di oggetti prodotti, bensì si può cercare di arrivare alle tecnologie sempre più innovative. Ecco, per esempio nel mercato delle telecomunicazioni, della navigazione satellitare, lì ci sono delle zone di sviluppo. Ma certamente sono le applicazioni che faranno il mercato vero dello spazio, sono i dati prodotti dai satelliti che, tornando a terra nel modo più disparato, navigare, tutti quanti noi navighiamo in modo satellitare con i telefonini che ci indicano la strada, il traffico, tutte queste informazioni preziosissime vengono dallo spazio. Ecco, è lì che si vede la differenza. È dal punto di vista scientifico è importante l'esplorazione spaziale, quindi, perché ha un fallout diretto, una ricaduta diretta nelle aziende e quindi nel lavoro. Assolutamente, Torino in particolare è una delle più grandi industrie. Sono dove abbiamo realizzato Legna Thales, abbiamo realizzato i più grandi satelliti per l'esplorazione planetaria del sistema solare, e imprese gigantesche che coinvolgono migliaia di persone. Ecco, lavoro tecnologico ad altissimo livello. Senta Battiston, ma può aiutarci a prevedere e a prevenire disastri naturali lo sviluppo di questa tecnologia? Ma Guardare la Terra è la nuova frontiera, abbiamo satelliti sempre più sofisticati e complessi che possono monitorare ciò che è successo, in alcuni casi aiutare in un rapido intervento, e poi abbiamo il disastro naturale per eccellenza, che è il cambiamento climatico. La grande sfida è come misurarlo, anticiparlo e soprattutto monitorare i comportamenti dei paesi che, dopo aver firmato gli accordi, certo, di miglioramento ambientale, li rispettino oppure no. Ecco, e ma questa è la grande sfida del futuro. Ma nell'esplorazione spaziale su Marte, ne abbiamo parlato anche con la Cristoforetti, che sarà la prossima tappa, l'Italia che ruolo avrà? Beh, innanzitutto, come ricordava anche Samantha, noi lanceremo il 14 marzo da Baikonur ExoMars 2016, che è la prima missione europea, ma a guida italiana. Abbiamo messo più del 35% di contributo, sia tecnologico, il prime industriale sarà proprio a Torino, e che atterrerà sul pianeta rosso per la prima volta. L'Europa, dopo essere atterrata su una cometa, per la prima volta, diciamo, per l'Europa c'era atterraggio sul pianeta rosso, ecco. E poi nel 2018 avremo addirittura un rover, un piccolo robot con le ruote, che porterà un trapano che andrà in profondità a scavare e a cercare magari tracce della vita. Senta Battiston, per chiudere, ma lo spazio è un luogo dove prevale la competizione tra le nazioni o la cooperazione? È questo fantastico equilibrio fra le due cose che ti permette di andare avanti. È una collaborazione competitiva o una competizione collaborativa, ma se vogliamo andare su Marte sarà necessario trovare il modo in cui tutti i paesi, anche Cina, anche India, anche i nuovi che si affacciano per la prima volta in questo settore, lavorino assieme. È una sfida troppo importante per essere, certo, presa da un singolo paese, per quanto sia importante. Anche grande. Se per ora India e Cina fanno un po' come vogliono. Sì, ma in realtà sui temi come le prossime missioni di esplorazione profonda ci può essere molto più accordo di quanto uno possa immaginare. Non dimentichiamoci, bene, che la Stazione Spaziale Internazionale è la dimostrazione di come America e Russia hanno collaborato, bene, anche nei periodi più bui. Grazie Battiston, auguri per la giornata di Torino Città dello Spazio. Tra gli organizzatori della giornata a Torino c'è l'azienda Altech. Abbiamo parlato del ruolo delle aziende, che è un'eccellenza italiana nel campo dell'ingegneristica. Enzo Giorgio è l'amministratore delegato. Ecco, ingegnere, vi definite la porta di accesso italiana allo spazio, cioè? Cioè siamo il mezzo attraverso il quale, partendo da tutte le capacità produttive nello spazio che ha l'Italia, che sono tante di ottima qualità, si passa alle operazioni reali, quindi alla capacità di operare nello spazio. È una piccola Houston italiana. Ecco, ma tra le vostre attività c'è anche la costruzione di moduli spaziali. Che costruite dove? A Torino? Allora, la costruzione e la manifattura di sistemi spaziali, quindi moduli abitati, quindi la metà di quello che è lo spazio abitabile dell'attuale Stazione Spaziale Internazionale, è fatta da Thales Alenia Space a Torino, che è adiacente al centro Altec. Thales Alenia Space è anche l'azionista di maggioranza di Altec, insieme all'Agenzia Spaziale Italiana. Ecco, uno dei vostri mandati è la promozione della cultura spaziale. Che cosa significa? Significa innanzitutto far capire quanto importante l'attività spaziale nella vita di tutti i giorni, quanto a noi viene dato dalle attività spaziali in termini di tecnologia, in termini di possibilità di utilizzare internet, in termini di possibilità di utilizzare i nostri telefonini, e quindi ridurre la distanza che c'è fra il cittadino non addetto ai lavori e le persone che lavorano nell'ambito spaziale. Ecco, per Altech, il vostro prossimo obiettivo, se non sbaglio, è Marte, è così? Sì. Sì, è vero. Marte perché e come? Innanzitutto perché è la prima missione europea di atterraggio su Marte. E in questa missione l'Italia ha un ruolo da protagonista. Nella fase di manifattura, quindi Thales Alenia Space e altre aziende italiane costruiscono e hanno progettato questi sistemi che andranno su Marte, e l'Italia ha anche la filiera scientifica, di quelli che sono gli esperimenti che verranno poi effettuati sulle navicelle spaziali. Ecco, ma esatto. Io volevo sapere che differenza c'è fra, diciamo così volgarmente, le navicelle spaziali che vanno adesso in orbita e quelle che andranno su Marte. Le differenze tecnologiche sono sostanziali. Innanzitutto Marte si trova a una notevole distanza, il che implica che tutte le operazioni che vengono effettuate sia in orbita marziana sia sul territorio marziano vengono recepite a terra circa un quarto d'ora, 20 minuti dopo. Sì. Pertanto noi abbiamo bisogno di avere sistemi che siano intrinsecamente autonomi, sì, capaci, certo, di decidere. La seconda cosa è la capacità di entrare e scendere e atterrare quindi sul terreno marziano, che è un'operazione che dura 6 minuti e che noi vedremo solo quando essa sarà già avvenuta, va fatta con un sistema di progettazione che quindi consente alla sonda stessa un potere decisionale, mi si lasci dire, certo, la capacità, perché se ci vogliono 15 minuti deve decidere. Esatto, in più c'è da dire che in funzione dello scopo scientifico della missione del rover di ExoMars, quindi della missione marziana, sì, che è quella di cercare una presenza di vita, certo, sia essa presente o passata, ha bisogno di una pulizia, e lo metto in, tra virgolette, intrinsecamente altissima, ovvero naturale, non vogliamo evitare di portare da terra qualcosa che contamini. Ecco, però esatto, io le faccio una domanda banale. Siamo andati sulla Luna, la corsa alla Luna, tutti sulla Luna, siamo arrivati sulla Luna, adesso non ne importa più niente a nessuno. Capiterà la stessa cosa su Marte? Ma c'è una differenza che è abbastanza sostanziale. La corsa sulla Luna era una corsa squisitamente tecnologica, al di là dei suoi aspetti politici. La corsa su Marte dà sicuramente qualcosa in più, perché si ritiene che Marte qualche centinaio di milioni di anni fa fosse relativamente simile alla Terra, ovvero più calda, più umida e con presenza di acqua in superficie, nella forma liquida. Però potrebbe capitare la stessa cosa, insomma. Esatto, capire i meccanismi di evoluzione di quel pianeta in qualche modo ci garantirebbe anche una comprensione migliore di quello che potrebbe, forse, succedere sulla Terra. Ma potrebbe anche capitare che ci arriviamo, scopriamo quello che ci serve e grazie, arrivederci. Potremmo capire come in realtà è evoluta la geologia del pianeta e quindi potremmo tornare indietro, fermo restando che comunque Marte presenta delle caratteristiche spettacolari dal punto di vista della vivibilità, cioè su Marte c'è acqua, l'abbiamo, certo, scoperto attraverso, certo, le nostre missioni di in orbita. Naturalmente. Senta, un'ultimissima sì, cosa, ingegner Giorgio. Ma è vero che quando a Houston hanno un problema chiamano Torino? Cioè, pronto, sì, qui sì, Houston, è vero, pronto, è vero, Torino? È vero. Lì, insomma, Torino pure, che cosa gli dà a Houston che Houston non ha? Torino gli dà la competenza su quei moduli che Houston non ha, ce l'abbiamo noi e quindi loro correttamente si rivolgono a noi per avere suggerimenti sulle operazioni da fare. 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 gli sms con i vostri commenti. Torniamo subito dopo la pubblicità. Mix 24. Pietrangelo, che ci fai sentire stamattina in apertura? La dedica la scelta Cleopatra in persona e la sovrana l'ha voluto per Giulio Cesare, e tutto questo perché la zuppa di cielo oggi nel mattino di dopo pioggia ha svegliato, ed era tutta un'incredibile allegria di sorrisi, uno schieramento di dune, di sabbia, e ogni fermata della metropolitana è stata come un miraggio o un sogno forse sbagliato, per cui ci si ritrovava tutti tra i binari, spiaggiati, come se fosse tutto sabbia e mare. Sì. sabbia mare anche per te, Mario? No. Kiss me. Vabbè. Io certe cose le esprimo in musica. Lo sanno, anche i nostri ascoltatori lo sanno. Sixpence. Ti amano anche per quello. Kiss me. Vabbè. Giovanni, io sai che leggo attentamente, o provo, diciamo, i giornali la mattina, e stamattina sono stato colpito da questo annuncio, no, del Quirinale che fa i tagli. Ora, va bene. È importante. Ok, va benissimo, ci mancherebbe altro. E in fondo è solo dal 1999 che ogni presidente della Repubblica ci annuncia i tagli. Quindi immaginate quanto grasso ci sia da tagliare, no, nelle spese del Quirinale dai tempi di Ciampi. Quindi fate un po' voi, diciamo, i conti di quanti anni sono passati. Ma non è questo il punto. A un certo punto ho detto, vabbè, fammi vedere il bilancio. Ancora non era stato pubblicato, stamattina molto presto, o almeno io non l'avevo ancora individuato. Lo guarderò dopo, tranquilli. E mi è cascato l'occhio su un annuncio. Che peccato, si è chiuso il 18 di febbraio alla selezione. Ma insomma, il Quirinale che risparmia, il Quirinale che fa giustamente i tagli, il Quirinale virtuoso, il Quirinale dei viaggi in tram, il Quirinale dell'aereo di linea all'improvviso, il Quirinale che è un esempio per tutti, il Quirinale della contabilità luddista, fa una selezione per assume due butteri. Due butteri? Sì. Due buttare. Però fa la selezione. Sì. Non sono chiamata. Il segretariato generale della Presidenza della Repubblica intende avviare una selezione pubblica per individuare due figure esperte nel settore dell'allevamento delle bestiame, cioè i butteri, da inserire nella tenuta presidenziale del segretariato generale della Presidenza della Repubblica di Castel Porziano. Allora, noi abbiamo quindi il Quirinale che c'ha la tenuta, il bestiame. E okay. I butteri da su, e che poi sui giornali in pompa magna fa i tagli. Allora, taglierà da qualche altra parte. Mettiamola così. È come a Buckingham Palace, più o meno, capite? È una monarchia, però così travestita anche da una sorta di democrazia. Vabbè, aspetteremo il prossimo bilancio per vedere altri tagli. Nel frattempo, concedimi un'uscita. God save the Queen. God save the Queen. Saramino. L'arte a proprie spese. Ennio Morricone riceve il premio Oscar, corona ancora una volta la sua prodigiosa carriera con un meritato successo, insomma un premio alle sue fatiche, ma dice: in Italia non lavorerò più per la RAI. Ecco, questo è Ennio Morricone. Lui ha vestito di musica i più importanti film del nostro immaginario. Per esempio, Per un pugno di dollari. Oppure Metti una sera a cena. Vogliamo ricordare C'era una volta in America? E ovviamente, tra i tanti titoli, me lo dovete consentire perché il sangue urla, Nuovo Cinema Paradiso. E con Nuovo Cinema Paradiso adesso invece viene premiato per il nuovo film di Tarantino, e con questo premio Oscar, salutato da tutti i giornali, dalle autorità, io vorrei segnalare una bellissima intervista sul Corriere della Sera realizzata da Aldo Cazzullo, dove il maestro, nel raccontare la sua bellissima storia d'amore con Maria, sua moglie, parla dell'Italia che di fatto, la nostra Italia, ha una strana idea dell'arte, del genio. Ma Morricone appunto oggi può dire: non lavorerò più per la RAI. La RAI, va da sé, è la più grande azienda culturale della nazione. Leggo dall'intervista: l'ultima volta mi hanno cercato per un'opera di Alberto Negrin. Mi hanno detto: maestro, ci sono 10.000 euro per lei e per l'orchestra. Ora, io posso anche decidere di lavorare gratis per il mio paese, ma i musicisti vanno rispettati. Incidere una colonna sonora con un'orchestra costa almeno 20, 30 e forse 40.000 euro. Cazzullo chiede: ma se la RAI tornasse a chiamarla? Risponde il maestro: è una storia finita. Ora, io non per seminare zizzania, non per mettere sale nella ferita, rigirare il coltello, sai, domanda che ci domandiamo, insomma, i milioni di euro che vengono spesi per esempio per Fabio Fazio, sono sicuro che si trovano una soluzione. Potrebbe essere che Ennio Morricone si facesse rappresentare, che so, da Caschetto, e magari il procuratore, insomma, che lo faccia lavorare in Rai. Però Io dico una cosa: quale sarà la prova di novità della nuova Rai? Potrebbe essere quella di far tornare, per esempio, Ennio Morricone, perché bella forza fare la prova di novità evocando Mike Buongiorno con Rischia Tutto. E quindi, domanda che ci domandiamo. E qui il rischio c'è, e il tutto pure. Non è che va a finire così? Una tua buona parola ci vuole. Potrebbe darsi, insomma. Questa sigla ci aspetta. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica. Ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori. Ha precipitato il mondo nell'odio. Ci ha condotti a passo d'oca fra le cose più abbiette. L'avidità ci ha condotti a passo d'oca fra le cose più abbiette. Ed è forse questa la grandezza di questo straordinario discorso. Il barbiere ebreo parla del nazismo, ma le sue parole diventano un monito per tutta l'umanità. Nei primi mesi del 41, mentre l'Europa è travolta dalle truppe del Terzo Reich, esce in America Il grande dittatore. Un capolavoro pacifista che parla di uguaglianza, libertà e speranza. Chaplin versus Hitler. Un viaggio inedito dentro la nascita di un capolavoro. Testimoni, segreti, sconfitte. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Canzoniere. Mi tengo quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Gianluca da Roma. Gianluca, buongiorno, come va? Abbastanza bene, grazie. Bene, che fai di bello? In questo momento o nella vita? L'attore? Ah, sì. E sta girando qualcosa? Ho finito di girare da poco un film, una fiction con Paolo Sorrentino, sì. Ah, senta, hai indovinato? Il fiume di Ungaretti. Giusto. Ah, bravissimo, bravissimo, complimenti. Allora auguri per la prossima fiction. Speriamo che venga presto. Arriverà. E teatro, no? Teatro, beh, lasciagli fare la fiction. Sì, sì, no, tanto teatro. Tanto teatro, va bene. Anche teatro, allora. Ma bolla, Mario, per finire? Sì. Allora, bello, no? Bello. Beh, bello, sì. È interessante perché... Per introdurci a cosa? No, intanto è uscito il bilancio del Quirinale. Ah, è uscito? Ah, non l'avevi visto stamattina? No, non c'era ancora pubblicato integrale, adesso cede. Me lo studio tutto, senti un me po lo qua. Studio tutto, costa solo 352 milioni di spese. Vabbè, allora, troverai le pulci. Prego. Ma è tornata la Boldrini da Londra? Ecco il punto. Boldrini, fammi Londra. Però ancora un po' di musica. Ah, questi sono i Wild Oats Speak All Yours, bellissime voci. Non è tornata, il viaggio della Boldrini a Londra continua. Ah. E devo dire entusiasmante. Prendete appunti voi umani. Ma già ieri ho preso appunti. Era fantastico. Prendi appunti anche oggi, Giovanni. Grandissima agenda da cui dipendono le sorti proprio del paese. Ore 12:15 presso la residenza dell'ambasciatore a Londra, la presidentessa Boldrini incontrerà la professoressa Mary Bird dell'Università di Oxford. Subito dopo, alle ore 13, altra cosa fondamentale, colazione con imprenditrici, avvocatesse e giornaliste italiane. Sono cose che scuotono le fondamenta dell'Occidente. E allora, di nuovo... God save the Queen. She ain't no human being. Manca solo il Senato stamattina, ma non ho fatto, vabbè, non Senato, ho fatto in domani, tempo con l'agenda del Presidente. Senato, ci perdoneranno tanto. Sì, noi facciamo solo radio ormai, no? E per chiudere, chi lo sa, e per chiudere e chi lo Gloria sa, vediamo. Ferrera, che cosa ci ha preparato? È una minaccia. Oggi ho scelto una canzone che tenne per ben 9 settimane prima in classifica Rita Pavone nel 63. Per chi è travolto dal battito, Cuore, cantata da Arisa. Mio cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata, per te pace, no, non c'è al mondo.